24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno, sono le 7:21 minuti e siamo qui, cari ascoltatori, con 24 mattino in diretta fino alle 9. Il nostro Carmelo Lauricella è lì in regia. Avremo ospiti tra un'ora il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E poi avremo ospiti alle 8:30, subito dopo, Paolo Ferrero, Giancarlo Galan, per parlare dell'attualità politica. Alla vigilia del vertice europeo, il Consiglio europeo, sono momenti decisivi, chiave, anche per la tenuta del governo Monti, così si vocifera, e ovviamente per materie più serie, cioè la tenuta dell'euro, la tenuta dell'eurozona, materie più importanti, anche più grandi. Insomma, ci giochiamo davvero tanto, non solo come esecutivo italiano, ma soprattutto come tenuta europea in questi giorni, domani e venerdì. Allora, siamo su Twitter, Talino Milan, sono io, @24mattino la trasmissione, siamo anche su Facebook, così ci trovate, 24 mattino e via, siamo pronti a leggere i giornali in edicola. Questo mercoledì 27 giugno i titoli di apertura dei giornali sono tutti declinati sulla vigilia appunto del Consiglio europeo, e domani sarà altrettanto. Intanto li vediamo: Merkel boccia il piano salva euro, così è l'apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, Monti, tratterò a oltranza. Repubblica, Monti, salvare l'euro a ogni costo. La Stampa, Monti Merkel, sfida per l'Europa. Il Giornale, Monti chiede aiuto. Il Messaggero, scudo antispread, si tratta. Libero, per un giorno, forza Monti. L'Unità, euro, il piano c'è, Merkel no. Avvenire, Monti media, Merkel no. Insomma, questo rigore di Angela Merkel, ha detto: finché vivrò gli eurobond non passeranno. Altro regalo alle banche, 4 miliardi a Montepaschi, questa invece è l'apertura del Fatto Quotidiano. Io voglio partire proprio da due, un'intervista e un profilo. Una è sul Fatto Quotidiano, Malcolm Pagani fa un'intervista a Oliviero Toscani, il celebre fotografo che spara zero su tutti. Il pretesto per intervistarlo è che da oggi Toscani collaborerà col Fatto, credo sceglierà ogni settimana una foto per il Fatto e poi la spiegherà. Ma per lanciare questa iniziativa c'è un'intervista di Oliviero Toscani che parla a 360 gradi della politica italiana, e sentite cosa dice a pagina 9. Il titolo è: mi fa più paura Monti di Grillo. I bocconiani ci stanno uccidendo, non c'è più fantasia, umanesimo. Meglio passare 4 anni a San Vittore che uno in quell'università. Ne escono certi prodottini che Dio ci scampi. Ma guardi in faccia Monti, questo è Toscani che parla, di cosa vuole parlare con uno così? Di arte, di cinema, di figa? È un ragioniere. Per quelli come lui l'esistenza, la vita sono i minuti utili a spendere, incassare e far ripartire il PIL. E poi però va avanti, di Grillo. Grillo è un duce, non è colpa mia se parla come Goebbels, dice cose giuste in divisa da nazista. Ma noi italiani abbiamo sempre bisogno di un duce. Berlusconi, un super duce. Gli italiani sono così, scelgono il condottiero, lo incensano e poi ogni 20 anni, come a Piazzale Loreto, lo mettono a testa in giù. E ancora... E comunque preferisco Grillo, e più di lui mi fa paura Monti, uno che non ha capito neanche i Beatles e Rolling Stone, ma si rende conto da chi siamo governati? Teste di... No, Toscani si ferma, di legno stavo dicendo, li guardi, si concentri, Passera, Fornero, io ho i brividi, siamo caduti dal parrucchino di Berlusconi alle bende delle mummie attuali, mamma mia. E poi dice: però voto Grillo, sì, chi devo votare? Ha visto a sinistra D'Alema e come Andreotti, non è mai stato eletto perché nessuno lo vuole, con quell'aria di superiorità, sufficienza, fa ridere i polli e riesce in un'impresa eccezionale. Quale Toscani? Stare sui coglioni all'intera cittadinanza nazionale. E anche Bersani, una delusione, lo conobbi da presidente di regione, in gamba, molto in gamba, non capisco cosa gli sia successo, si vede che ha perso le palle, in segreteria le sfilano evidentemente a tutti, ma guardi, il quadro è ampio, Montezemolo, lo chiamo libera e bella, fluenti capelli al vento, shampoo, pesce al venerdì e stati in yacht, e Fini era fascista. E poi conclude: ma insomma un po' di senso estetico, mette la cravatta salmone. Anche Fini, insomma, questo è Oliviero Toscani che fa un excursus a suo modo sulla politica italiana, lo trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 9. E poi Che dire, noi ne parleremo anche con Ferrero, con Galan. Oh, ieri il sottosegretario all'economia Polillo ha insistito ed è tornato su questo tema. Bisogna lavorare di più, cari italiani, bisogna lavorare di più. Altrimenti l'attuale livello di salari, gli stipendi, non è più sostenibile. Cari italiani, avete sentito bene, sottosegretario all'economia, oggi Libero, lo mette in prima pagina con Mattias Mainiero. Polillo colpisce ancora, racconta un po' tutte le quelle che vengono definite da Libero le gaffe della storia di Polillo, il sottosegretario kamikaze che punta a rubarci le ferie, Mattias Mainiero, prima di Libero. Il lancio di agenzia arriva alle 12, mezzogiorno in punto, sole a picco di 29 gradi, non sapremo mai se la colpa è del caldo, della propensione all'esternazione fuori luogo, purché memorabile, probabilmente un mix di queste cose. Leggiamo, lavoriamo 9 mesi all'anno e gli altri 3 se ne vanno in vacanza. Nel dettaglio, un lavoratore ha diritto a 5 settimane di ferie l'anno, fino a 15 permessi, a 12-13 feste infrasettimanali. Se a questi aggiungiamo 10 giorni di astensionismo tra malattie e scioperi, arriviamo a 3 mesi. Conclusione, o lavoriamo di più o questo livello salariale è insostenibile. Quanto di più? 7 giorni. Nome Gianfranco, cognome Polillo, data di nascita 9 gennaio 44, professione kamikaze. Così scrive Libero. C'era chi si schiantava al suolo con l'aereo, bomba umana, chi si schianta con la dichiarazione impossibile. Polillo, mediaticamente parlando, è un arsenale. Sentite questa, quando, obbedendo all'operazione trasparenza, il sottosegretario ha reso pubblica la sua situazione patrimoniale, ha scritto che guadagna 189.000 euro lordi a un appartamento di 150 metri quadri, ha aggiunto che possiede una smart di seconda mano, un ciclomotore Honda e poi ha specificato socio del Reale Circolo Tevere Remo, che non è un fondo di investimento. Perché lo ha specificato? Vallo a capire. Ma poi il Libero racconta le varie dichiarazioni di Polillo. Un giorno, quando alla presidenza del Consiglio c'era Amato, Polillo era capo del servizio studi di Montecitorio e disse: il governo dovrà fare una manovra bis. A che titolo parlava? A titolo personale, precisò l'ufficio stampa. Qualche tempo dopo, quando fu chiamata a Palazzo Chigi come capo del Dipartimento Affari Economici, poi, quando Elsa Fornero pianse in TV, ricordate, disse: un politico dell'esperienza sua non avrebbe mai fatto l'icona della fontana che piange. A che titolo parlava? Personale, ovviamente. La TV è la seconda casa del sottosegretario kamikaze, a tal punto, spiegano i maligni, che sul salotto TV Polillo paga anche l'IMU. Mister Bomba Mediatica è onnipresente. Una volta disse ad Agorà su Rai 3, citando il libro di Tabucchi, diceva Pereira, solo che si intitola Sostiene Pereira. Alla Zanzara, qui a Radio 24, ha raccontato come è diventato sottosegretario. Per caso ho dato il mio curriculum a Cicchitto, di cui ero consulente, lui lo ha dato a Monti, che non conoscevo. Tutto qui. E poi a Piazza Pulita, sulla 7, ha avuto un battibecco con un commerciante che gli ha fatto vedere le chiavi, dicendo: guardi, domani i miei negozi li aprite voi. E Polillo: ma qui in queste chiavi vedo una chiave da SUV. E il commerciante: guardi, in realtà è l'antifurto del negozio. Insomma, chiude Mainiero, ora il kamikaze ne ha detta un'altra. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, di cui che abbiamo letto ieri, è tornato sulle ferie che non andrebbero fatte e ha detto: siamo disperati, non sappiamo più dove andare a prendere i soldi, dobbiamo trovare 8 miliardi, dobbiamo farlo subito. Mister kamikaze, così Polillo, il kamikaze antiferie, insomma, è un tema che ritorna: lavorare di meno, altrimenti questi salari vanno abbassati. Cari italiani, ci fermiamo 4 minuti. E allora eccoci qua alle 7:34 minuti, è la vigilia del vertice europeo, del Consiglio europeo, e tanti giornali ovviamente dedicano articoli su queste aperture e analisi ovviamente di quello che succederà in 2 giorni in cui ci giochiamo molto del futuro dell'euro, dell'eurozona, vedendola e declinandola all'interno della politica italiana, anche della tenuta del governo Monti. Beh, certo, suona imperioso il rigore di Angela Merkel, che ancora ieri ha ribadito: mai gli euro bond finché vivrò. E questo è il titolo che trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore con Beda Romano, che racconta: la Germania ha reagito negativamente all'atteso rapporto sul futuro della zona euro in grave crisi debitoria che il Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, ha presentato ieri. Pur equilibrato nei contenuti, il testo, che menziona varie opzioni di obbligazione europea, ha indotto il cancelliere Angela Merkel a ribadire che non vi sarà alcuna mutualizzazione dei debiti finché sarà in vita. Questo è il punto di partenza, questo fa capire, e l'ha detto anche il Premier Monti ieri parlando alle Camere, sarà un vertice tesissimo, importante, un vertice in cui, ha detto Monti, combatterò fino all'ultimo secondo, perché cercare di capire se ci sarà qualche apertura. A dir la verità, una apertura da parte della Germania c'è sull'utilizzo del fondo salva stati, e forse questa potrebbe essere la chiave di volta del vertice per cercare di corrodere un po' di questo rigore del cancelliera tedesca Angela Merkel. Vale a dire, l'utilizzo, la proposta, quella avanzata da Mario Monti, dal governo italiano, che porterà avanti fino alla fine, è quello di utilizzare il fondo salva stati come strumento anti-spread, in pratica, cioè utilizzare, fissare circa un livello di spread oltre il quale si potrà acquistare dei titoli di Stato dei paesi appunto, si può dire un po' così, in difficoltà, sempre che questi paesi comunque mantengano il rispetto di tutte le riforme, i parametri entro quali bisogna stare per essere considerati dei paesi in via virtuosa. Il salva stati farà da anti-spread, per esempio il titolo della stampa pagina 4, con Alessandro Barbera. Ripetuto e roboante no di Angela Merkel ai titoli di debito europeo potrebbe far pensare al peggio, eppure all'ora di cena a Palazzo Chigi si respira un controllato e scaramantico ottimismo. È proprio appunto per il tavolo del futuro dell'Unione Europea che si decide, con tre ministri delle finanze, un vice, vale a dire Vittorio Grilli. I ministri delle finanze sono francese e tedesco, e poi Vittorio Grilli, appunto, il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn. Si parla appunto di questo: usare il fondo salva stati in funzione anti-spread per i paesi virtuosi, però quelli che ovviamente rispettano tutti i parametri. Tanto che anche Francesco Bei, nel suo retroscena di Repubblica di prima pagina, parla di un Monti che è pronto a giocare questa carta decisiva. Si alza la cappa su Roma, scrive Francesco Bei. Mario Monti intravede finalmente qualche segnale positivo. Il premier appare ai suoi interlocutori più disteso dopo giorni che, confessa egli stesso, sono stati nerissimi. Le buone notizie arrivano in coppia, tra l'altro, racconta Francesco Bei. Anche Elsa, la signora Elsa, la moglie, da due mesi alle prese con i postumi di pancreatite, si sta riprendendo, e il premier lo comunica contento ai parlamentari. E poi sul fondo salva stati la Germania sta cambiando opinione. L'idea, appunto, quella di fissare una soglia di spread. Ai tedeschi Monti ha suggerito 250 punti base, oltre la quale scatterebbero automaticamente acquisti di titoli pubblici sul mercato da parte del fondo salva stati. Attenzione, ovviamente, solo per quei paesi che rispettano i vincoli severissimi stabiliti da Berlino. Potrebbe essere questa la chiave di volta sulla quale Monti dice: lotterò fino alla fine. Certo, colpisce anche l'endorsement in qualche modo di Libero, il quotidiano di Maurizio Belpietro, che dice e scrive: diciamo forza Monti almeno per un giorno. Il professore smette i panni dello scolaretto, bacchetta tedeschi e francesi, sono i primi ad aver violato le regole. Insomma, un cambio di rotta che, in attesa dei fatti, applaudiamo. Almeno per un giorno, Belpietro dice forza Mario Monti, e in questo vertice ci si gioca molto. Giuliano Amato, intervistato da Federica Fantozzi sull'Unità, rispolvera l'ex premier il suo spirito europeo, parla di questo vertice, dice: non ci sarà naufragio, la cancelliera tedesca si preoccupa per i suoi elettori che temono di dover pagare conti altrui, ma a mio avviso lei deve fare di più per spiegare loro che il costo maggiore lo pagherebbero se si sfasciasse l'eurozona. E ancora Giuliano Amato: sono convinto che presto o tardi la Germania dovrà fare concessioni sul terreno dell'europeo, ma sui tempi i mercati possono saltare e l'Italia dovrebbe avviare un piano B per calmierare lo spread se nessuna di queste ipotesi decolla in sede europea. Riguardo a Monti, ha ancora la forza e tutta la forza che serve per imporre le sue opinioni in sede europea. Così Giuliano Amato, intervistato dall'Unità, prima o poi Merkel cederà, ma a noi serve un piano B. In questa intervista non c'è invece una sola domanda al ruolo di Amato, che doveva suggerire a Monti come tagliare o rivedere i fondi ai partiti, il finanziamento pubblico ai partiti, ve lo ricordate? Il consulente Amato? Per ora di quello non si sa poco o nulla. Certo, su questo vertice pende appunto l'appoggio o il non appoggio o il mancato appoggio o l'appoggio più o meno debole o forte, a seconda di come si voglia leggerlo, dei partiti italiani a Mario Monti. Tutti guardano da giorni al Popolo della Libertà, un partito forse più in difficoltà anche nei sondaggi, e che per questo vede anche un Berlusconi che un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra. Per alcuni è tentato a far mancare il supporto, a far cadere l'esecutivo Monti dopo questo vertice, per altri invece no. Lo stesso Berlusconi ha detto sarebbe una sciagura far perdere oggi il sostegno a Monti. Certo, però lo stesso Berlusconi ha detto vedo l'incertezza più assoluta, l'indeterminatezza più assoluta alla vigilia di questo vertice. Insomma, un Berlusconi che fa dichiarazioni altalenanti, tanto che Libero accusa così governo poco determinato, ma Silvio abbaia e non morde. E il Corriere della Sera con Alessandro Trocino, Berlusconi parla di indeterminatezza, il Premier, vero, il negoziato è aperto, l'articolo lo trovate a pagina 3. E racconta appunto di come Berlusconi ha avuto anche un incontro ieri col Premier Mario Monti, e ha esordito, racconta Trocino, con una frase shock: stiamo pagando un prezzo altissimo, il 75% dei nostri elettori è contrario al sostegno al governo Monti. Ma subito dopo la frase controbilanciata: vi prego di usare toni consapevoli della responsabilità che abbiamo, ho parlato con le autorità di Bruxelles che hanno definito catastrofica l'ipotesi di una caduta di governo. Insomma, un Berlusconi da questo punto di vista ondeggiante, tanto che l'articolo che dovete leggere sono due di commenti, il primo di Francesco Verderami, sempre sul Corriere della Sera, la tattica del cavaliere, le rassicurazioni al prof. L'ex premier Berlusconi, racconta Verderami, rivela che la sua offensiva è solo marketing politico, perché gli serve per risolvere i nodi del Popolo della Libertà. Dunque Berlusconi che deve ristrutturare il centrodestra per evitare una catastrofica sconfitta, che, racconta Verderami, si profilerebbe per un'eventuale elezione, visto che dai report che gli arrivano sul tavolo il 50% sarebbe per l'eventuale alleanza PD-UDC di consensi, a fronte di un risicato 30% per il centrodestra, tenendo buona anche quella parte della Lega che ci starebbe. E dunque un Verderami che dice Berlusconi guarda più al fronte interno, è solo marketing politico queste dichiarazioni altalenanti. Più diretto è il secondo commento che vi voglio sottoporre, a Giuliano Ferrara, che guardate che cosa fa sul Foglio, lo trovate a pagina 3 nella pagina nei commenti, si rivolge a Berlusconi e Alfano così: detto con affetto, cazzoni. Questo è il titolo dell'editoriale di Ferrara, del cazzone in capo, ora candidato al Ministero del Tesoro in team con il segretario di cui è presidente e che sarebbe il presidente del presidente, sono amico affettuoso, sincero, abbastanza disinteressato ed eterno. Se passo dunque all'irriverenza e la dirigo verso persone e gruppi che difendo come posso e con cui faccio più o meno lega a modo mio e con accanimento da tanto tempo, è perché spero che con un po' di turpiloquio pronto a ricevere la mia mercede in ritorno ci si capisca meglio. Ma che volete fare? Tutto, proprio tutto, il contrario di tutto? Avete sostenuto la transizione Monti, spiegandomi che le elezioni sotto la neve non si dovevano fare. Poi avete detto che serviva responsabilità nazionale. Poi avete sostenuto che ora basta tasse e sfregi la strana democrazia televisiva in cui siamo immersi. E la Fornero si faccia le sue riforme, che per noi sono una boiata pazzesca, infine che l'euro lo possiamo buttare nel cesso e che una grande campagna PDLina più liste civiche e cinofile potrebbe portare la coalizione al 40%. Insomma, ma che dite? Dice Ferrara, dite il tutto il contrario di tutto. E quindi si rivolge con questo epiteto Ferrara a Alfano e Berlusconi, nella speranza, dice lui, di scuotere un po'. Cazzoni! Il traffico. Intanto arrivano i tagli, la spending review, la revisione della spesa, cari ascoltatori, è o no una bufala, è come io la definisco con l'hashtag su Twitter, una super cazzola che ci stanno propinando, oppure, Mario Sensini sul Corriere della Sera, pagina 5 per la verità, racconta che lunedì ci saranno i tagli, lunedì prossimo, insieme alle misure sulla sanità, sugli acquisti di Stato, sono attesi tagli affidati ai singoli ministeri come l'accorpamento delle province. L'accorpamento delle province, ce la faremo lunedì? Dopo anni e anni, chi lo sa? La riduzione delle piante organiche attraverso la messa in disponibilità. E poi che cosa? E poi, intanto la stampa racconta di, per esempio, sulla sanità ci sarebbe in atto una visione ben diversa tra il ministro Giarda e il ministro, cioè i rapporti con il Parlamento, e il ministro Balduzzi, che appunto è il capo del Ministero della Sanità. Visioni proprio diverse, e anche che riguarda anche il supercommissario Bondi, su come tagliare, su come razionalizzare la spesa. Poi torna questa questione dei ticket, i buoni pasto per gli statali, per i milioni di statali. La stampa, pagina 8, Rosaria Talarico, la sforbiciata dei ticket restaurant da 7 a 5 euro, pare, per carità, sempre ipotesi, attendiamo lunedì, ma pare che questa sia un'idea. Così per l'amministrazione è esentasse. Alla fine, racconta Talarico, se la sono presa con lui, il buono pasto, magari poi trasformato in buono spesa, in ogni caso un fido alleato per arrivare con più facilità a fine mese. Le forbici della spending review tagliano il valore dei ticket ristoranti per gli statali, 450.000 persone, tra ministeri romani e attività distaccate nelle province. Dagli attuali 7 a poco più di 5 euro, questa sarebbe la scelta. A dire la verità, il giornale mette in prima pagina quella che sarebbe una scelta più scioccante. Il titolo di prima pagina, sotto Monti chiede aiuto sulla questione europea, è ipotesi shock, vogliono congelare la tredicesima degli statali. Per carità, anche questa è un'ipotesi che è circolata. Il giornale la spara appunto poi a pagina 7, l'ipotesi tredicesima congelata agli statali. Questa è una delle idee, ma insomma vedremo lunedì. Intanto, a proposito di soldi e revisione della spesa, prima parlavo di Giuliano Amato, che succede il finanziamento pubblico ai partiti, non sono pervenute, i consigli di Giuliano Amato per il momento, almeno sui giornali, non sono pervenuti su come razionalizzare il finanziamento pubblico ai nostri partiti, anche perché oggi ci sono ancora altre notizie su questa vicenda. La prima va a rispolverare il caso Lega, l'ex tesoriere Belsito, ricordate? Ebbene, si è scoperto, la Guardia di Finanza ha scoperto che ora anche soldi per i vestiti di Bossi, Umberto Bossi, Paolo Colonnello sulla stampa pagina 11, indagini sui rimborsi elettorali del Carroccio, fra le spese personali del Senatur spunta anche l'abbonamento a Sky. Allora, secondo la Guardia di Finanza, 24.000 euro sarebbero stati destinati ai vestiti di Umberto Bossi, il Senatur, tra cui anche forse la canotta, ovviamente ora si ironizzerà sulla canotta di Umberto Bossi, e comunque vestiti, mutande, canottiere, calzini, scarpe, perfino un pigiama, grazie a soldi pubblici dei rimborsi elettorali elargiti dal munifico ex tesoriere Francesco Belsito, così racconta Paolo Colonnello sulla stampa, ma anche il Secolo XIX in prima pagina. E anche il Mattino, a Bossi pagavamo canottiere e camicie verdi. Questo è Francesco Bonazzi sul Secolo XIX. Le canottiere simbolo del senatore in filo di Scozia, con costano 20 euro l'una. Per le camicie verde Padania comprate 5 alla volta 70 euro. Poi gli abiti da 600-700 euro. I pantaloni spezzati da 185. Pigiami, giacconi, maglie, cinture, calze, mutande. Tutto quanto serve a vestire il capo per un totale di 24.286 euro in 3 anni. Diciamo la verità, anche una piccolissima cifra, ma è simbolica, no? Capite? 24.000 euro del partito, del finanziamento pubblico ai partiti, finiti nelle casse del tesoriere e sarebbero finiti per pagare il vestito e anche l'abbonamento a Sky della villa di Gemonio di Umberto Bossi. Invece Rutelli continua a difendersi con lettere, oggi una pubblicata sul Corriere della Sera contro l'USI, a pagina 15. Francesco Rutelli, caro direttore, grazie così per lo spazio, e poi dice: l'USI non può essere preso sul serio, mi riferisco all'articolo di Fiorenza Sarzanini che parla di 600.000 euro che sarebbero stati a mia disposizione distribuiti. È un reo confesso, un ladro, e le parole di un ladro, traditore della fiducia di un intero partito, calunniatore, mi auguro non siano anche stavolta da prendere sul serio. Da qualche mese l'attenzione della stampa verso le sue dichiarazioni, la noto, ma è vero che egli ha mentito nel primo interrogatorio, nel secondo, non ha ammesso nulla nei suoi 3 interventi al Senato, ha diffuso attraverso infinite interviste una quantità di veleni e depistaggi puntualmente richiamati dai pubblici ministeri, dal GIP, dal Tribunale del Riesame. Insomma, un ladro patentato non può essere preso sul serio così. Rutelli ancora sul Corriere della Sera. Che dire, io voglio andare a chiudere con un pezzo di Filippo Ceccarelli su Repubblica. Prima abbiamo parlato delle vacanze degli italiani che il sottosegretario Polillo vorrebbe ridurre. Filippo Ceccarelli invece: l'onorevole minaccia ferie ad agosto o è crisi? Io ve lo dico, se ci volete far star qui fino al 12-13 agosto sono problemi vostri, a quel punto ve la trovate voi una maggioranza. In bocca al lupo. Queste le parole, secondo l'agenzia Dire, pronunciate ieri pomeriggio a Montecitorio dal capogruppo PDL Cicchitto, che così si sarebbe rivolto al ministro Giarda, che in quel momento stava studiando il calendario dei lavori con il vice di Cicchitto, l'onorevole Baldelli. In tempi di antipolitica e di rabbia antiparlamentare, di sacrifici, di forconi, il monito sull'intoccabilità delle ferie dei deputati merita una segnalazione, così come la sorpresa del ministro che sulla base del dispaccio Dire sarebbe rimasto a bocca aperta. Cicchitto avrebbe aggiunto: io ci starò, sarò qui perché ho vacanze a 2 ore, ma non ci sarà nessun altro. E allora Filippo Ceccarelli racconta, dalle Maldive al pellegrinaggio in Terra Santa, la storia delle onorevoli e intoccabili ferie dei politici. Lo trovate in prima pagina e poi a pagina 9 di Repubblica. Le ferie degli italiani invece per Polillo vanno tagliate. Zac zac, la vera spending review. Il giornale radio. Mattino. Eccoci, le 8:19, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo qui per parlare di politica. Intanto lo facciamo con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Buongiorno a lei, grazie a tutti gli ascoltatori. Senta, lei, una delle sue frasi più ricorrenti era: scassiamo l'Italia, no? Però qualche volta l'ha detto, insomma, però qualcuno dice che si sta scassando la sua giunta, no? Dopo che c'è stata l'ultima perdita anche dell'assessore Narducci, c'è questo rischio? No, innanzitutto chiariamo, la giunta è ben salda e più coesa di prima. Fare queste esperienze così difficili in un momento storico così complicato, non tutti riescono a reggere tensioni, difficoltà. Poi scassiamo è un termine diverso, che durante la campagna elettorale, quando avemmo la percezione che stavamo vincendo, io dissi: napoletano, abbiamo scassato, cioè nel senso abbiamo sfondato, ma l'Italia va ricostruita più che scassata. Sono altri che l'hanno scassata, soprattutto la mala politica. Adesso è la fase della ricostruzione positiva. Perché gli dice però che la giunta è coesa e forte? Cioè, questa cosa ha segnato molto anche il dibattito, la dialettica molto forte tra lei e Narducci. Ma non c'è dubbio, Narducci ci lega un rapporto antico di militanza in magistratura, quindi ovviamente tutti gli abbandoni sono sempre dolorosi, ma la giunta è ancora più coesa perché, ripeto, io credo che in questo momento c'è una condivisione fortissima di questa esperienza napoletana, cioè i miei assessori che lavorano 20 ore al giorno, stiamo lavorando tantissimo in un momento difficilissimo, senza soldi, e Napoli è una città che si sta riprendendo fortemente. Ripeto, non è facile amministrare, soprattutto per chi viene dalla magistratura, insomma non, è un momento difficile anche fare politica. Ecco, la vera sfida adesso è vedere chi se la sente di buttarsi in un'esperienza che ti impegna certe volte 24 ore al giorno. Sì. Pensi che l'altra volta il Consiglio Comunale è durato 30 ore di fila senza interruzione per approvare un bilancio di guerra, perché noi abbiamo, non siamo, siamo senza soldi, Napoli come Torino, come Milano e come Palermo, il governo ha tagliato tutti i fondi ai comuni, quindi noi stiamo governando senza soldi. Ma il governo tra poco ci arriviamo. Senta, però sempre sulla vicenda, visto che anche lei è un ex magistrato, il CSM che ha detto Narducci non può rientrare a fare il magistrato a Napoli, secondo lei è opportuno, è giusto così? Non può, non deve fare il magistrato dove ha fatto anche il politico di fatto? Giusto, oltre che condivisibile. Poi io, lei lo sa, ne abbiamo già parlato anche nella sua trasmissione, io ritengo che il magistrato che comincia a fare un'esperienza politica poi dopo debba valutare se ritornare o meno in magistratura. Per Narducci è un po' diverso perché ha fatto un'esperienza tecnica, ma oggi la differenza tra tecnica e politica non è molto lineare, basta pensare al governo Monti, tutti sono convinti è un governo tecnico, in realtà è un governo politico. Io credo, ho fatto la mia scelta, io mi sono dimesso dalla magistratura, ho rinunciato alla pensione, ho rinunciato a tante cose perché credo che la politica sia un'arte nobile, nel momento in cui scegli di farla è una strada che la devi perseguire fino in fondo. Senta, ma è vero che lei vuole, così leggo, vuole, ha questa idea anche di mollare tutto a Napoli e vedere le evoluzioni politiche del 2013 o forse anche prima? No, questo è assolutamente infondato. Cioè lei ce lo può escludere che si... Assolutamente, guardi, al 100%. Nel 100% esclude che si candiderà. No, lo escludo perché oggi la vera sfida, secondo me, è dimostrare che si può cambiare governando. È molto facile fare un comizio di opposizione, insomma una grande manifestazione. Questi sono momenti importanti, belli e significativi in politica, ma oggi la vera sfida è dimostrare che si può governare in modo diverso da come hanno fatto altri, e farlo oggi da sindaco, perché diciamo la verità, i sindaci sono eletti direttamente dal popolo, guardano negli occhi la sofferenza, ascoltano le persone, la sfida che io voglio portare avanti è questa, riuscire a cambiare una città difficile come Napoli, che tra l'altro sta ripartendo alla grande facendo il sindaco, quindi questo io lo escludo al 100%. Di potersi candidare, diciamo, qui e nel 2013, ottobre 2013, poi il futuro chi vivrà vedrà. Senta, visto che ha parlato di Monti, lei è andato di recente dal presidente Napolitano, credo, a chiedere una legge speciale per Napoli. Ancora leggi speciali? Perché se non si può governare con leggi normali? No, la ringrazio di questa domanda e mi consente di chiarire. Noi non abbiamo chiesto nessuna legge speciale. Ci sono stati grandi città come Catania, Palermo, Milano con l'Expo e Roma con la legge per Roma Capitale che hanno avuto interventi speciali. Noi non abbiamo chiesto soldi a differenza di altri, abbiamo chiesto semplicemente, come chiede anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che ci sia un piano di rientro del debito. Le spiego, noi abbiamo ereditato dalle giunte precedenti circa 2 miliardi di euro di indebitamento. Questo indebitamento oggi impedisce ad esempio ai comuni, il Comune di Napoli come altri, di pagare i nostri creditori, dalle imprese agli operatori sociali, eccetera. Quindi noi oggi paghiamo interessi alle banche e sostanzialmente ci si riescono a pagare gli stipendi e poco altro. Quindi un piano di rientro del debito, che può valere per Napoli come per altri, è un modo per rimettere concretamente in moto l'economia e il lavoro. Quindi non abbiamo chiesto né una legge speciale, ma qualcosa che spetta a una città come Napoli, così come altre città che si trovano nella stessa. Ma un piano di rientro che vuol dire? Cioè dilazione del debito? Esatto, una dilazione del debito che poi viene monitorato, che poi, come dire, si paga, non è cash, non sono soldi, perché noi il piano di rientro significa anche poi restituire piano piano queste le condizioni che il governo ci concede, un piano che può essere di 10 anni, di 20 anni, che consente di diluire, quindi questa è una prima mossa. La seconda, abbiamo chiesto, ma questo non solo il Comune di Napoli, di poter avere delle deroghe al patto di stabilità, altrimenti il paese non crescerà e, ripeto, l'ho fatto prima un esempio, quando non si riescono a pagare i creditori, che cosa accade? Che gli unici che hanno liquidità, o quasi gli unici che hanno liquidità, sono le imprese mafiose. che rischiano da sole di partecipare alle gare, ma questo vale per Napoli come per Torino come per Palermo. Quindi il tema è nazionale. Noi sì, questo sì, il piatto di stabilità. Ma perché l'ha chiesto a Napolitano? Cioè dovrebbe essere il governo a fare un intervento di questo tipo? Io l'ho chiesto ovviamente, sì, no, attenzione, io l'ho chiesto al governo, ho chiesto al Presidente del Consiglio, ho avuto dei colloqui molto importanti con alcuni ministri, ad esempio il Ministro dell'Interno e il Ministro Barca, ho chiesto al Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è il garante dell'unità nazionale. Il Presidente della Repubblica ha sempre detto che senza Napoli e senza il Mezzogiorno non c'è unità e non c'è sviluppo. Napoli sta dimostrando di ripartire, se lei oggi viene a Napoli non trova rifiuti, trova grandi eventi, trova una città risvegliata, le persone che partecipano, io non credo che Napoli debba affossare per la mala politica del passato, cioè il tema è assolutamente questo. Monti invece, da Monti si aspetta qualcosa, sa che Monti lo danno sulla graticola, per qualcuno questo Consiglio europeo potrebbe essere una svolta e potrebbe anche cadere. Lei che voto darebbe alle politiche di Monti finora fatte? No, io sono deluso, questo l'ho detto, ma non lo dico solo da sindaco di Napoli, sono deluso perché si poteva fare di più e diversamente. Ad esempio si doveva mettere una patrimoniale sui grandi redditi, si doveva tassare i capitali scudati, si dovevano interrompere le emissioni all'estero, invece si sono come sempre garantiti i poteri forti, le oligarchie del nostro paese, la disuguaglianza è cresciuta, quindi io da questo punto di vista sono deluso. Abbiamo ancora un po' di tempo. Ma però, già, l'IMU, lei, già l'IMU è una patrimoniale per molti, l'IMU, la reintroduzione dell'IMU. Certo, i comuni vengono considerati una specie di banco, ma questa è straordinaria questa cosa, si tagliano i trasferimenti ai comuni, poi si mettono le tasse ai comuni, chiamata IMU, e una parte di quei soldi se la piglia il governo, insomma questa è veramente una cosa scellerata. Io pure credo che il momento è molto difficile da parte del governo. Noi abbiamo più volte ascoltato questa frase: dopo il rigore, dopo i tagli, dopo tutto quello che si è detto, verrà il momento della crescita, dello sviluppo, delle garanzie, delle politiche dell'occupazione. Questa frase non è venuta. Io come sindaco di Napoli, ma penso anche altri sindaci con i quali mi sento, abbiamo visto per adesso solamente tagli. Siccome si poteva fare diversamente, ecco perché il mio giudizio è negativo. Ma dovrebbe andarsene, cioè dovrebbe andarsene Monti a questo punto, secondo lei? Ma sa, questa è una valutazione in questo momento molto delicata. Io credo che in un paese democratico, quando prima si vada a votare e si abbia un governo eletto direttamente dal popolo, è un fatto, secondo me, salutare. Poi che questo avvenga a ottobre o avvenga in aprile, ormai ci siamo. Ma le chiedo questo, lei, visto che non è mai stato, per esempio, dell'Italia dei Valori, cioè all'interno iscritto, chi voterebbe oggi? Ce lo vuol dire, anche no, se il voto è segreto? Io no, ma non è quello il voto segreto, io voglio essere innanzitutto appassionato di chi devo sostenere, io credo che i voti e i sostegni anche dei sindaci vanno meritati, fino adesso non c'è uno scenario che mi entusiasma a livello nazionale. A livello nazionale, cioè chi vota, non so, però dovendo votare si vota tra sei mesi. Ma siccome non c'è il candidato, in questo momento veramente non saprei chi votare, anche perché non c'è un candidato, c'è solo confusione. Molti pensano che il paese lo cambi facendo operazioni algebriche, PD più DC più SEL più quell'altro, invece il paese vuole una risposta diversa, vuole persone credibili, programmi chiari, vuole radicalità di contenuti, vuole spazio ai movimenti e alla società civile. Se i partiti non capiscono questo saranno travolti da un'ondata importante alla quale francamente io non mi sento di non aderire, perché se non c'è una risposta chiara dei partiti, i voti vanno meritati, non è una cosa cioè importante. I partiti classici sono morti, diciamo così. Sono in difficoltà, secondo me sono in difficoltà, alcuni stanno cercando di reagire, però la situazione è ancora abbastanza confusa. Le faccio un'ultima domanda, che è questa, avrà sentito anche lei, seguita la vicenda sulla possibile trattativa Stato-mafia su cui indaga Palermo, perché mi ha incuriosito, ho letto su un giornale questa interpretazione, visto che ha indagato anche l'ex ministro all'interno Nicola Mancino. Nicola Mancino si sarebbe sfogato in una telefonata dicendo: mi vogliono vendicare per il caso De Magistris, cioè quando io ero al CSM lei De Magistris fu messo sotto inchiesta, diciamo, come magistrato. Lei di Mancino che pensa su questa trattativa? Metterebbe la mano sul fuoco per Nicola Mancino? Ma innanzitutto non fui messo sotto inchiesta, fui processato ingiustamente dal CSM presieduto da Mancino. Io ho già espresso la mia opinione, non solo non metterei le mani sul fuoco su Mancino, ma una considerazione assolutamente negativa di Mancino, come ho documentato tra altri in atti giudiziari in tempi non sospetti. Basta andarsi a prendere i verbali corriso alla procura di Salerno, e le cose che stanno venendo fuori adesso sono esattamente le cose che si sono verificate nel 2007 quando hanno chiesto la mia testa e ottenuto la mia testa. Questa è la sua, per la sua vicenda, ma sulla trattativa Stato-mafia lei crede ma che... Ma sono assolutamente dell'idea, un po' di tempo fa eravamo in pochi a sostenere, in primis Salvatore Borsellino e pochi altri, che c'era stata una trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Adesso sta su tutte le pagine dei giornali, ovviamente le indagini le fa la magistratura, ma quello che sta avvenendo fuori mi sembra un quadro assolutamente verosimile, ecco perché bisogna vigilare e impedire che ci siano interferenze indebite sull'azione autonoma e indipendente della magistratura. E su questo lei dice, non la stupisce vedere che Nicola Mancino sia lì? Il tempo certe volte è in parte galantuomo, adesso bisognerebbe riflettere appunto su che cosa è accaduto e credo che probabilmente degli accertamenti complessivi da parte della stampa, da parte di una commissione d'inchiesta, da parte della magistratura, su questi 20 anni che hanno segnato quello che si chiama il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, se noi non sappiamo che cosa è accaduto tra Falcone e Borsellino, dopo Lima, la stagione delle bombe, noi non capiremo tante cose. Io credo che pezzi di Stato sono stati deviati, credo, questa è una mia opinione personale, che tra i vari motivi dell'uccisione di Paolo Borsellino ci sia il fatto che mentre lui stava indagando su mandanti esecutori della morte di Giovanni Falcone, altri trattavano con Cosa Nostra, questo l'ha scoperto, adesso stanno venendo fuori collusioni, insomma quello che si legge nelle intercettazioni onestamente è davvero inquietante, quindi mi auguro che venga fatta luce fino in fondo, perché sapremo tante cose interessanti anche di epoche più recenti, dove appunto ci sono state interferenze indebite su altre azioni della magistratura. Io intanto la ringrazio, buona giornata, per essere stato con noi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Quando rientreremo invece dopo la pubblicità del meteo, tra 4 minuti, avremo ospite Paolo Ferrero di Fondazione Comunista, Giancarlo Galan, ex ministro dei beni culturali del governo Berlusconi, per parlare alla vigilia di questo vertice di tenuta politica. Di che succede allora? Anche oggi vogliamo parlare. Monti è in difficoltà, è appoggiato dai partiti, ha un mandato forte, dovrebbe essere sostenuto in questo momento difficile. Poi vogliamo tornare anche sulla vicenda del sottosegretario Polillo, che ha detto: cari italiani, meno ferie, lavorare di più, oppure il livello degli attuali salari è insostenibile, andrebbe abbassato. Tra poco, pubblicità e meteo. Eccoci qui alle 8:36 minuti, se volete intervenire in diretta 800 24 00 24, siamo alla vigilia del Consiglio Europeo, chiave sicuramente per la tenuta dell'euro, dell'eurozona, ci giochiamo molto per l'Europa, il nostro futuro. Cari italiani, e anche pare uno snodo importante per la tenuta dell'esecutivo Monti. È un Monti che secondo voi va rafforzato dalla tenuta dei partiti politici in Europa oppure indebolito? Non si capisce bene, per esempio, cosa voglia fare e cosa dica Berlusconi, che dice una cosa e poi il contrario di quella stessa cosa nel giro di poche ore. Secondo Francesco Verderami sul Corriere della Sera è marketing politico che fa per cercare di risolvere i problemi interni al partito. E poi c'è il sottosegretario Polillo che ancora ha detto: bisognerebbe lavorare di più, cari italiani, tagliare le ferie, altrimenti l'attuale livello di salari è insostenibile. Questo all'indomani, ancora leggevo ieri, di 1300 operai che sono rimasti a casa per un fallimento, questo è stato certificato ieri. Saluto Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista, segretario nazionale, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, salve a lei gli ascoltatori. Un saluto anche a Giancarlo Galan, ex ministro dei beni culturali. Galan, buongiorno. Buongiorno. Intanto vorrei partire da lei. Lei l'ha capito cosa vuole fare Berlusconi? Perché dice una cosa e dopo 12 ore o più o meno ne dice un'altra? Ma a me non sembra che avvenga questo. A me sembra che tutto sommato ci sia una linea assolutamente dritta. Berlusconi dice una cosa, quella che diciamo tutti noi. Questo governo è lì perché non perché ce l'abbiano messo gli italiani, ma è lì perché ha preso il posto di un governo che era il nostro, eletto normalmente con delle elezioni. È lì per fare una cosa, ridurre il debito pubblico. Non lo sta facendo, non lo sta facendo bene. E quindi lo faccia bene. E lo faccia bene. Però scusi, lei dice una linea dritta. Non so se ci ha letto oggi i giornali, il Foglio di Giuliano Ferrara, quindi una persona molto vicina a Berlusconi, fa un editoriale nel quale parla così. Si rivolge ad Alfano e Berlusconi e dice, detto con affetto, siete dei cazzoni. testuale, glielo dico testuale, perché dice in due mesi ci avete detto tutto, il contrario di tutto, e quindi passo al turpiloquio, me lo posso permettere, così magari scateno anche una reazione. Cioè lei dice barra dritta, ma a me pare che di dichiarazioni contrastanti ce ne siano, di Berlusconi. Sì, ma c'è un sentimento contrastante, che è ovvio. Noi questo governo, eccezionalmente posto al di là delle norme tradizionali e normali della democrazia, dovrebbe fare meglio il suo compito. Non lo fa, l'istinto sarebbe quello di tornare alla normalità democratica, l'istinto c'è in tutti noi, è indiscutibile. Cioè l'istinto di cacciarlo. Viene prima, cioè. L'interesse dell'Italia viene prima, e noi con grandissimo sacrificio, che vorremmo almeno compensato da misure migliori di quelle che sono state poste in essere, noi lo sosteniamo e l'abbiamo sostenuto anche nelle votazioni. Però lei dice l'istinto sarebbe quello di mandarlo a casa. Ma per forza, è lì per ridurre il debito pubblico e lo spread. Quello che è il debito pubblico non lo ha fatto, e sta facendo norme che dopo quella sulle pensioni con il buco degli esodati, ma era una riforma coraggiosa, non ne ha più fatta una di no, ma interessante, ma noi infatti io ho voluto chiamare proprio due diciamo monti scettici, se possiamo dire così, insieme a Galan, anche lei Paolo Ferrero, ovviamente arrivando ad analisi ben diverse, immagino, da Giancarlo Galan, però anche lei è critico nei confronti del governo. Ma non sentite il peso e la responsabilità di dire in questo momento, alla vigilia di questo vertice, un Monti che dice o mi sostenete o vado lì in Europa a dover lottare con Angela Merkel e il suo rigore, e sono spiantato se non c'ho un appoggio dietro di tutto il paese? Difatti lo abbiamo fatto. Perché questo, però, perché questo dover stare uniti, dover appoggiare, non valeva quando al governo eravamo noi, quando la sinistra faceva di tutto per legittimare il nostro governo in Europa. Vale solo per il centrodestra. Ferrero, su questo, lei sia sul sostegno al centrodestra, ma anche sul sostegno a Monti, perché non darlo in questo momento? Monti fa parte della malattia e non della cura, però innanzitutto io devo dire che sono d'accordo con Ferrara, perché è del tutto evidente che Berlusconi l'ultima cosa che pensa è staccare la spina al governo, e sta facendo propaganda, e cioè Berlusconi cerca di tenere assieme o di ricostruire un consenso sia tra coloro che ritengono che Monti vada sostenuto, sia tra coloro che si lamentano di Monti, e cerca di tenere, fa un'operazione populista in senso classico, di tenere tutte le posizioni, lo fa volutamente, in modo che poi quando si arriverà alle elezioni potrà dire ho sostenuto Monti, potrà dire ho combattuto Monti, potrà dire ho tirato affinché facesse questo, quello e quell'altro. È del tutto evidente che in questo modo, questa è veramente l'antipolitica, cioè il fatto di dire 10 cose diverse, di farne 10 ancora diverse. Se Berlusconi volesse far saltare il governo, basterebbe che non votasse, così come tutte le porcherie, quando si dice la riforma del lavoro è una porcheria, basta non votarla, così come questa storia del fiscal compact che andranno a votare nelle prossime settimane, che sarà un massacro per l'Italia, perché vuol dire stare in recessione per 20 anni, e se sono contrari facciano il favore di non votarlo. Quindi questo a me sembra il punto, la demagogia al potere. Poi invece su Monti la mia opinione è molto negativa, perché Monti non sta facendo nulla per uscire dalla crisi, perché le politiche che fa, e su cui Berlusconi, Bersani e Casini gli hanno dato il consenso, sono politiche che aggravano la crisi. E qui forse c'è il vero punto di divisione, a mio parere, oggi, sì, della politica italiana, che non è tanto centrodestra, centrosinistra in termini classici, ma è chi pensa che dalla crisi se ne esce con politiche di rigore, a cui magari aggiungere qualche investimento pubblico di crescita cosiddetta, che però non arriva, o chi pensa, come me, come la sinistra in Europa, che pensa che il problema della crisi è data dai salari troppo bassi. Non sarà d'accordo, quando avrà sentito Polillo ieri, immagino che avrà... Polillo dice, Polillo dice delle vere e proprie stupidaggini, perché ho fatto un dibattito con lui e gli ho chiesto: scusa Polillo, la settimana in più che vuoi far lavorare la gente, a chi gliela vendi quella merce? perché il problema che hanno oggi le aziende è che non riescono a vendere il loro prodotto, per questo mettono giù la cassa integrazione. Allora su questo noi abbiamo delle proposte, diciamo, si faccia una tassa sui grandi patrimoni, si metta un tetto alle pensioni a 5.000 euro, si metta un tetto agli stipendi dei parlamentari, si metta un tetto agli stipendi dei grandi dirigenti pubblici, cioè si prenda delle risorse da chi ha di più, e si taglino le tasse sui pensionati, sui lavoratori, sugli artigiani, sui commercianti, in modo da mettere delle risorse in circolo nell'economia. Questo secondo lei Monti non lo fa perché è il Monti dei poteri forti, il Monti delle elite del paese, il Monti delle lobbies, insomma, cose che abbiamo già un po' sentite, trite e ritrite? Ma Monti non lo fa perché lui e la Merkel condividono la stessa idea, perché ma come? No, questa sarebbe una gara. Ma come? No, cioè, pare che Monti vada lì a combattere fino all'ultimo secondo con la spada in mano per convincere la Merkel, e lei mi sta dicendo che hanno la stessa idea. Hanno la stessa idea. L'idea è: c'è la crisi dentro questa globalizzazione. Gli Stati Uniti hanno le bombe atomiche e tanta ricerca, la Cina, il Brasile, questo intanto lavoro a basso costo, e l'Europa allora costa troppo, e infatti Draghi dice il welfare non si può sostenere, avanti, hanno tutti la stessa idea, la loro idea è che bisogna abbattere lo Stato sociale e i salari, rendendoli gerarchici, cioè la Germania più in su, la Grecia già al fondo, Portogallo, Spagna, Italia un po' più sotto, avanti. Questo vuol dire demolire la sostanza dei diritti, e a questo fine è il vero obiettivo. Cioè, stai dicendo che quindi Monti e la Merkel si vedranno e faranno finta di litigare? A questo obiettivo, se lei nota, si usa come scusa lo spread. No? Sì. E il fatto che la Merkel dica sono disponibile a mettere in comune il debito dei paesi che hanno un avanzo primario, cioè che hanno fatto i compiti, cioè che hanno fatto le stangate, vuol dire una cosa sola: le stangate, le riforme, che lo spread si può fermare quando si vuole, semplicemente non viene fatto, perché viene utilizzato come dire pressione esterna per obbligare i paesi a fare le stangate o a fare le riforme. No, ma si fermi qui, perché questa è un po' l'area molto del complottone, cioè utilizzare la grande speculazione finanziaria internazionale che controlla lo spread in modo che, tenendolo alto, gli stati sono poi obbligati a fare quelle che le chiamano stangate, quelle che per altri sono giuste riforme. In ogni caso, le informazioni sul traffico, ripartiamo da qui. Allora, siamo con Paolo Ferrero, siamo con Giancarlo Galan, 800240024, la vigilia del vertice europeo, ci ha chiamato anche Sandro da Livorno, buongiorno Sandro. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci, dica. Sì, no, volevo rispondere un attimo al signor Galan, che insomma ha detto una cosa molto ridicola a mio avviso, nel senso che nessuno li ha espropriati dal loro incarico, si sono espropriati da soli, e tutta la conseguenza politica di Monti è esclusivamente del PDL. Invece non le piace questo tirarsi fuori dal problema che si è creato, dice, sono in realtà la colpa. La colpa è loro, la causa è loro. Ha sentito Galan, voglio dire, guardi, ma non c'è, è tutta colpa nostra. Lo spread è la colpa di Berlusconi, del nostro governo. Tutto quello che andava male era colpa nostra, ma sono abituato a questa litania. Si figuri se mi colpisce più di tanto. Però anche dall'altra parte dire è tutta colpa di Monti suona anche. Ma nessuno dice colpa di, io dico e lo dico a forti e chiare lettere che Monti non sta facendo bene il suo incarico. Forse è stato anche sbagliato ammantare di Monti in questa idea del salvatore di Mandrake che arrivava a sistemare i problemi di un paese che ha ereditato da un bel po' di anni di politiche magari malsane. Certamente. certamente sì, c'è stata questa colpa che è addebitabile un po' a tutti, non certo soltanto a noi, probabilmente anche ai quotidiani, probabilmente anche all'ansia giusta degli italiani di vedere il proprio paese andare bene, quindi probabilmente ai quotidiani si è in fatto che senso? Carico di aspettative che era difficile mantenere, per carità, ma siamo qui per no, questo sì, ma ai quotidiani, ai quotidiani in che senso, Galanzi? Ah, colpa, che è stato intentato, è stato ricoperto di questo potere, è stato, gli è stato attribuito forse una possibilità che oggettivamente non aveva o non ha avuto, quindi noi lo sappiamo benissimo che il compito è difficilissimo e anche col voto di ieri abbiamo dato una mano con grande responsabilità. Dopodiché devo dire che io sono rimasto molto turbato dalle analisi di Ferrero, cosa, se, questa idea del controllo dello spread, un esponente così a difendere l'Italia in Europa, beh, ci sarebbe per davvero da rabbrividire se la sinistra dovesse avere bisogno in caso di vittoria elettorale di un apporto del genere, beh, insomma, allora si allontanerebbero per davvero le nostre possibilità in Europa. Il problema dell'Italia è probabilmente un altro, quello di Polillo, anch'io sono dell'idea che lavorare una settimana in più non risolva di sicuro i problemi, però il problema vero è quello che, contrariamente ad altri paesi europei, quello che noi mettiamo in tasca ai lavoratori è soltanto una piccola parte, meno della metà di quello che l'azienda spende. Ecco, lì c'è la tragedia. La tassazione quindi delle imprese. Lì c'è il bisogno infinito di riforme profonde e radicali, altro che settimana di lavoro in più. Su questo, Ferrero, lei effettivamente la sua analisi, con la quale l'abbiamo seguita, per carità, c'è chi ci scrive via sms: Ferrero legge troppi fumetti, ecco, su questa idea, Ferrero, questa idea che lo spread venga utilizzato per tenere alta la pressione sugli stati che poi devono fare quelle che lei chiama stangate, ma è una lettura un po' da finanza globale che si unisce, no, fa dei complottoni. Guardi che se legge i giornali, consiglierei in particolare a Galan il Sole 24 Ore, sì, che è uno dei pochi giornali seri in Italia, perché grosso modo dice le cose come stanno, c'è scritto tutti i giorni, banalmente, perché l'Europa è l'unico posto nel mondo in cui la banca centrale presta i soldi alle banche private, sì, che poi a loro volta speculano sugli stati e non presta i soldi agli stati? Non succede così in Inghilterra, non succede così negli Stati Uniti, in Giappone, in da nessuna parte, solo in Europa. Questa è la ragione per cui c'è solo in Europa la speculazione sul debito pubblico. E il fatto che la Merkel convenga con Monti che si interviene per ridurre lo spread ai paesi che hanno fatto le stangate e sugli altri no, mi dispiace, non è un problema di complottismo, di fumetti. No, ma questo sì, non è che sono le stangate. La Merkel dice, va bene, accetto il fondo salva stati se lo spread arriva, che ne so, Monti propone a 250, ma solo a chi fa quelli che chiama i compiti a casa. Ma no, non le stangate, quelli che hanno, voglio dire, lei le chiama stangate, la Merkel dice quelli che rispettano i parametri stabiliti da Berlino, se no andiamo avanti, sì, facciamo come in Grecia, assumiamo i dipendenti pubblici anche con lo Stato allo sfascio e va bene così. Le posso far notare una cosa? Che però lo stesso fondo salva stati non più di 15 giorni fa ha messo 100 miliardi di euro per salvare le banche spagnole, sì, che non solo non avevano fatto i compiti, sono pieni di titoli tossici. E così come sono pieni di titoli tossici. Anche Obama ha salvato le banche. Se crollano le banche, non è questione di difendere le banche, ma è difendere le banche per difendere un sistema economico. Non è vero. Il problema è che si stanno difendendo. Lei dice difendere le banche. Io dico salvare gli speculatori. Perché il problema delle banche, per me, è di salvare i conti correnti delle persone. Non il fatto che ci siano gli speculatori che si sono comprati miliardi di derivati che adesso non valgono più un euro, che noi gli compriamo, perché il fondo salva stati sta salvando le banche, cioè sta pagando dei titoli che non valgono più una cicca con i soldi delle tasse degli italiani, degli spagnoli, perché abbiamo pagato anche la nostra quota. Allora a lei le sembra normale che uno Stato debba aumentare le tasse della benzina, debba aumentare, fare l'IMU e tutto il resto? questo, perché questi sono i compiti, perché lo Stato deve essere virtuoso. Lo stesso Stato mette i soldi per salvare le banche che hanno fatto le porcherie peggiori e che continueranno a fare. Mi faccia fare l'ultima domanda a Galan in flash. Galan, lei che è fautore del ritorno di Berlusconi, si deve ricandidare, deve ritornare in campo in prima persona Berlusconi, o ha fatto il suo tempo? Ma un conto è la candidatura a premier, sì. E quella si deciderà. Vuol fare il ministro dell'economia adesso. La vedremo, ma no, ma anche questa è una buttata, se lo vede uno che ha fatto il primo ministro tutta la vita fare il numero due di un altro. No, ma un conto è il problema della candidatura a premier, sì, per il prossimo governo, e quello lo si vedrà quando sarà il momento, quando sarà, c'è anche una coalizione di cui da tener conto, vedremo. Un altro conto è quello di tenere un fuoriclasse oggettivamente in panchina. Il fuoriclasse in panchina, mai e poi mai. Mi devo fermare. Grazie a tutti voi. A domani. 24 mattino.